Non è ancora arrivata in Italia, a quanto mi consta, la nuova generazione di videogiochi elaborata in Gran Bretagna da un tale Tim Boff, o Boff. E non è detto neanche che vi attecchirebbe, infatti si tratta, a quanto mi è sembrato di capire, di una specie di percorsi eredonici interattivi, la cui caratteristica saliente è quella di ispirarsi alla Bibbia. Un testo notoriamente poco diffuso nei paesi a prevalente tradizione cattolica come il nostro. Ma non è detto, le vie del Signore sono notoriamente infinite, chissà, forse un giorno potremo giocare anche noi a Spiritual Warfare, guerra spirituale, che presuppone in forme simboliche la difficile ricerca dell'armatura di Dio, o a Exodus, il cui problema ovviamente è quello di portare il popolo di Israele dall'Egitto alla terra di Canaan, o meglio di tutti a Save Baby Moses, salva il piccolo Mosè, che investe i giocatori del difficile compito di proteggere il futuro legislatore dalle ire del faraone. Questo Mr. Boff, a quanto dichiarato lui stesso ai giornali, si è preoccupato soprattutto dal livello di violenza espresso dai videogame tradizionali, in cui i nemici vengono decapitati, squarciati, fulminati senza pietà, citazione sua, e ha deciso di lanciare sul mercato un prodotto più mansueto, i cui protagonisti cercano di convertire i nemici con una testimonianza cristiana. Sarà. Io personalmente mi intendo. Mansueto la Bibbia. Sì, io personalmente di videogiochi mi intendo pochissimo, a parte una divorante passione per il Tetris, in cui comunque mi faccio regolarmente battere dalle mie nipotine, e meno ancora mi intendo della Bibbia, però ne ho letto abbastanza per non aspettarmi niente di buono. Se la proposta del più imprenditore lancerà una moda, io sarò un vecchio laico incallito, di quelli che oggi non hanno diritto di cittadinanza neanche al microfono aperto di Radio Popolare, ma non vorrei che le nuove generazioni traessero, non so, ispirazione morale da giochi, ne supponiamo qualcuno, non so, il gioco della conquista di Gerico, Giosuè 6:20-21, votavano lo sterminio tutto ciò che in città, che era in città, passando a fil di spada uomini, donne, fanciulli, vecchi, buoi, pecore e asini, o che apprendessero come trattare le minoranze linguistiche simulando alla tastiera o col joystick il modo con cui Jefte e i Galaaditi trattavano gli Eflaimiti, Giudici 12:5, aperte le virgolette, quando un dei fuggiaschi di Eflaim diceva lasciatemi passare, gli chiedevano sei tu un Eflaimita? E se quello rispondeva di no, gli dicevano ebbene prova a dire Shibboleth, con lo Shibboleth, e se quello diceva Sibboleth senza badare alla pronuncia, lo prendevano e lo scannavano presso i guadi del Giordano. E non vedo neanche quale coscienza ecologica potrebbe nascere da un eventuale gioco ispirato al secondo libro dei Re 3:24-25, sorsero i figli di Israele e sbaragliavano i Boabiti che fuggivano innanzi a loro, poi penetravano nel paese, distrussero le città, ogni buon piezo di terra lo riempivano di pietre, ognuno gettandovi quella che si era portato dietro, turavano tutte le sorgenti e abbattevano tutti i buoni alberi. E per non trascurare il Nuovo Testamento, non mi piacerebbe affatto giocare ad Anania e Saffira. Sapete quei due sposi di Gerusalemme che si rifiutarono di versare a San Pietro la somma completa ricavata dalla vendita di un podere? E ne furono così aspramente rimproverati che ci restavano secchi sul colpo, che è una specie di anticipazione radicale della pratica dell'8 per mille descritta in Atti degli Apostoli 4:32. Non insisterò, di esempi ce ne sono tanti, non insisterò anche perché so benissimo qual è la risposta standard a questo genere di obiezioni anticlericali tradizionali. È vero, si dice, è vero che nella Bibbia, nel Corano, nella Vesta, nelle Upanishad, nel Popol Vuh, in quanti altri libri sacri girano sul globo sublunare, è vero che c'è una quantità notevole di nefandezze, ma ciò non esclude affatto il loro carattere sacro, il loro valore educativo, anche se non necessariamente in forma di videogioco. Sono aspetti che vanno letti nel contesto della loro epoca e dei costumi e dei valori allora diffusi, e non inficiano la portata generale del messaggio religioso e morale ivi proposto. Che se poi rispondeste che introdurre delle distinzioni che fanno comodo siete bravi anche voi, e che comunque è poco carino storicizzare certi aspetti di un'opera e non certi altri, e per di più in base a un puro criterio di fruibilità vostra, vereste considerati senza dubbio un caso irrecuperabile e spediti d'urgenza dall'arcivescovo di Torino per farvi esorcizzare. Che volete? Saranno sciocchezze, ma in questi tempi di integralismi risorgenti, di ricorrenti polemiche su Chador in Francia, di persistente presenza in Italia dell'onorevole Formigoni. Quando i semiologi di vaglia e i filosofi della scienza Insigni riscoprono il valore del trascendente e nei circoli anarchici si svolgono normalmente seminari sul sacro e sul rito, anche i videogiochi basati sulla Bibbia mi sembrano in qualche modo preoccupanti. Io so benissimo che non è necessario credere nella sacralità di quei testi per commettere una quantità di azioni riprovevoli e che, come ebbe occasione di osservare Madame Roland, poveretta, infiniti delitti sono stati commessi in nome della libertà. Ma in nome della libertà propria, che è una cosa che sta a cuore parimente ai laici e ai credenti e la cui difesa unifica la comunità umana al di là di qualsiasi opzione di natura soprannaturale. L'impegno a difendere la libertà altrui, beh, è tutta un'altra cosa, ma provate a trovarlo nella Bibbia e nel Corano se ci riuscite.